Siamo finalmente giunte e giunti su Ponte Garibaldi, davanti alla lapide di Giorgiana Mani, uscita dallo Stato nel 12 maggio 1977. Oggi nel 2013 siamo ancora su questo ponte per ricordare che Roma è antifascista, è antisessista, è autodeterminata, ha deciso di scendere in piazza nonostante i divieti della questura per ribadire che l'autodeterminazione dei corpi passa attraverso l'attraversamento di questa città. La violenza che quotidianamente subiamo sui nostri corpi la ripetiamo e la combattiamo quotidianamente. Adesso il microfono è aperto a interventi riguardo di Giorgiana e per ricordare che l'autodeterminazione non la deleghiamo a nessuno.